racconterò una favola. C'era una volta un uomo in una scatola, piatta come una tavola, passava il tempo più diventava. L'uomo da dentro vivendoci, la schiena gli si curvava. Aveva due o tre finestrelle, dove da dentro lui guardava le stelle. L'unica cosa che poteva osservare, perché sotto di lui c'era il mare. Naufragando se ne andava, galleggiando si allontanava. In quella che sembrava una zattera, mi salto fuori e disse: io sono il re di questo regno. Un uomo dentro la sua scatola aspetta cauto un suo momento per uscire fuori, ma intanto il tempo, nemico della pazienza, mi fa tornare i conti al punto di partenza. Racconterò una favola. C'era una donna prigioniera della sua scatola, piatta come una tavola, passava il tempo e più soffocava. La donna da dentro vivendoci, il cuore le si spezzava. Aveva solo un buco come finestrella, dove da dentro lei fissava una stella. L'unica cosa che poteva osservare, perché con gli occhi aperti lei sapeva sognare. Fantasticando se ne andava e immaginando si allontanava. In quella che sembrava una rampa per ogni sogno, lei saltò fuori e disse: ridatemi il mio orgoglio. Dentro la sua scatola aspetta cauto il suo